paranoia delirante. Paranoia delirante. Esquina paranoia delirante. Paranoia delirante. Esquina paranoia delirante. Paranoia delirante. Esquina paranoia delirante. Paranoia delirante. Paranoia delirante. Esquina paranoia delirante. Paranoia delirante. Esquina paranoia delirante.